qualcun altro ha interventi, se no proverei a fare un giusto un recap finale partendo sempre da Catania, ovvero come abbiamo detto noi a Catania abbiamo, ci siamo un po' sperimentati, abbiamo provato queste forme di rugby misto fra vecchi, giovani, ragazzi, ragazze, ecco. È stato un bellissimo terreno di sperimentazione in cui abbiamo capito molte cose, che il rugby è uno sport duro e questo lo sapevamo già, però che può essere giocato comunque da tutte e tutti in maniera mista. Ovviamente qual è il grosso problema con il giocare misti? È l'agonismo, cioè quella voglia di vincere che ti piglia quando stai giocando a qualche cosa. Ed è lì che secondo me il rugby misto e l'agonismo non si coniugano così bene, perché anche i campionati difficilmente li potrai fare misti, secondo me. Cioè Wisp è misto e bellissimo, perché effettivamente lo è, però qual è secondo me poi scusate mi sto perdendo, però l'agonismo per l'appunto è il grosso punto di che definisce chi può giocare e chi non può giocare a volte, ok? Ovvero se vuoi vincere non farai giocare tutti, ma questo anche all'interno di una squadra solamente maschile, solamente femminile, e secondo me comunque è un grosso problema per lo sport popolare che vogliamo spingere noi. Cioè devi scegliere se fare una partita perché stai giocando un campionato e vuoi vincere quel campionato e quindi farai giocare quei 15 che sono i migliori allenati e gli altri 10 che sono convocati in panchina non entreranno neanche. Perché? Perché sei sotto di un punto e fino all'ultimo ci credi. Ecco, secondo me questo è un grosso punto che ci dobbiamo incominciare a pensare, perché è anche il motivo per cui a volte le ragazze non possono partecipare, o anche noi come Stella Rossa abbiamo avuto difficoltà a far partecipare delle ragazze, perché magari non c'erano gli allenamenti dietro, barra comunque problematiche che sono sorte durante l'anno e che stiamo affrontando e cercheremo di risolvere per l'anno prossimo. E questo che cosa significa? Cioè, che secondo me si risolve unicamente mettendo minuti di gioco anche a quelli arrivati l'altro ieri e che una palla ovale non sapevano neanche ci fosse prima. Cioè, e questo secondo me è l'obiettivo del rugby popolare e quello che dovremmo spingerci, quindi occasioni di formazione di tecnici che sono pronti a far giocare tutti, barra allenare tutti, per farli crescere, ma non solo formare tecnici, ma anche proporre occasioni di gioco in cui, per l'appunto, sì, la vittoria, magari c'è il torneino, però non deve essere l'obiettivo primo di quando si va a partecipare a quell'evento. L'obiettivo primo è divertirsi e stare insieme e giocare a rugby e far giocare tutti al rugby e tutte. E quindi secondo me questi sono un po' spunti di riflessione che ci portiamo a casa da questa stagione passata, almeno noi a Stella Rossa, ma spero che con questa assemblea siamo riusciti a condividerli anche con tutte le altre squadre, e sicuramente anche le altre squadre avranno trovato dei momenti in cui si sono scontrati con gli stessi punti nostri. Quindi io sono super contento di, per l'appunto, di spingere degli momenti di aggregazione e formazione per degli staff tecnici, ma secondo me per l'appunto dobbiamo organizzare anche delle partite. Quindi il calendario di rugby popolare che abbiamo fatto, bello, l'abbiamo fatto un po' in ritardo, io per primo lo capisco, perché è impossibile partecipare a tutti gli eventi senza adeguato anticipo, e anche con adeguato anticipo farsi tutta l'Italia in tour è molto faticoso. Di conseguenza la mia proposta è riproponiamolo l'anno prossimo, magari anche durante la stagione, diciamo, invernale, occasioni di incontro, E soprattutto poi questa stagione estiva spingiamocela un sacco anche per l'anno prossimo, non fermiamoci, che abbiamo un sacco di potenzialità da esprimere, ecco, questo qua. Grazie mille, Thor. Non è finita. Non è finita perché volevo spingere esattamente in valle. Ok, esatto. Del rugby popolare non è finito, il calendario non è finito, ci sono ancora un tot di eventi, quindi partecipate e venite, non solo qua. Allora, prima di fare un ultimo recap, non so se... Ah, perfetto. Sullo spunto di Thor rispondo, come si dice, nel merito. Rugby, divertirsi, stare assieme a giocare, perfetto. L'agonismo nel mescolare maschio e femmina quando ci si allena. L'agonismo, certo, tutti vogliamo vincere, vincere dà soddisfazione, eccetera. E dipende qual è l'obiettivo del giocare. Se io gioco con l'obiettivo del divertirci e stare assieme, cerco ogni volta, ogni azione sono in campo, di capire chi ho davanti. Cioè, è chiaro che se mi trovo il giocatore neofita in allenamento, specialmente, vado a contatto in un modo diverso, cioè non è che ogni azione è al 100%, ogni intervento è distruttivo. Se anche di più mi metto come obiettivo durante un allenamento quello di imparare io e insegnare qualcosa alla mia squadra, magari certe azioni le svolgo in maniera meno individuale o cerco di coinvolgere dei giocatori che altrimenti starebbero fuori dall'azione, per esempio. È un modo, diciamo, meta allenamento, giocare a meta rugby, andare un po' oltre la cosa agonistica, che è quella scontata di base. Uno entra in campo e dice vado lì per vincere, ma se te sai che vai in campo con un'altra testa, provi a fare anche altre cose. E sempre nel merito cioè non sono critiche, sono per dire, sono risposte possibili, secondo me. Cane, vieni via dal piatto. La questione invece oddio, quella del giocare tanto, gli 80 minuti di partita la domenica, quelli chiaramente dove c'è maggiore investimento emotivo, dove tutti vorrebbero giocare, chiaramente non tutti possono giocare, non è possibile avere un criterio di uguaglianza lì, in cui tutti giocano allo stesso tempo e lo stesso tempo importante, perché è più importante entrare all'inizio che entrare alla fine, senza dubbio, e se ne accorge chiunque. Beh, sì e no, è vero. Sì e no, è vero. Comunque sia, anche lì si può ragionare sulla roba. Cioè, te cosa vuoi, giocare a rugby? Perfetto, c'è un momento a settimana in cui puoi venire a giocare quanto ti pare, un momento è allenamento. Gli allenamenti ci sono, te non pensare alla partita, quanto giocherai la domenica, te devi pensare a quanto puoi giocare in allenamento. E mi sono sentito di fare questo intervento perché in formazione a me piacerebbe parlare di questo, cioè come trovare strade alternative per superare quelle che sono questioni che ci si presentano a tutti. Grazie mille. Ma, sì, vieni qua, amici. No, vieni, assolutamente. No, perché sono due punti, cioè il punto interessante che sono emersi appunto l'autoformazione. Vabbè, facciamo prima l'intervento di Mitch, vai Mitch. E io continuo su questo filone e parlo, diciamo, solo da giocatore e non con nessuna esperienza di allenatore e tantomeno quindi della parte un po' educativa poi di quello che è l'allenatore del rugby, diciamo. Io penso che il rugby, cioè il fulcro dell'agonismo del rugby, nasca sostanzialmente poi dall'uno contro uno, cioè è uno sport di squadra, ma quello che viene richiesto sostanzialmente è che tutti facciano il proprio in modo tale che poi si arrivi a un obiettivo condiviso. Quindi, poi, essendo il fulcro l'uno contro uno, secondo me, più che smorzare, diciamo, il sano agonismo che viene uno contro di me e ci sono pochi cazzi, cioè se o lo ribalto io o mi ribalta lui, cioè il rugby sostanzialmente è questo, nel senso c'è una linea tracciata laggiù, o arrivo alla meta io o qualcuno mi respinge indietro, cioè, non possiamo troppo girare. Quindi più che smorzare, secondo me, questo discorso è cercare di rendere più fruibile questo concetto e renderlo un po' più sano. Quindi fare in modo che il concetto dell'uno contro uno possa essere esteso a tutti, cioè fare in modo di far capire siccome è tutto qua, e secondo me, vabbè, adesso cito un grande che è stato motivo di soddisfazione dell'ultima giornata a Milano, però il mitico Capuozzo, ci fa capire che in realtà è tutto qua. Cioè, nel senso, quindi, secondo me il concetto del sano agonismo dell'uno contro uno è da fare in modo che possano tutti usufruirne di questa cosa, che sia nella femminile, che sia nel maschile, e questo è anche un modo per fare sì che il rugby misto vada proprio più liscio, nel senso che alla fine non è neanche una questione di fisico, perché uno potrebbe dire gioca uno in una maschile con 20 kg di massa e perché non può giocare una ragazza che magari ha una massa muscolare decisamente maggiore, quindi poi ha un effetto maggiore sull'uno contro uno. Non è neanche questione di, cioè, per fortuna il rugby ci mette in condizione di fare in modo che sia tutta una questione di testa. Quindi secondo me dobbiamo passare questo concetto in modo tale che non ci dobbiamo trovare a smorzare questa cosa per poter includere tutti. E in più mi piace anche pensare che il motivo sano, per esempio, del siamo in tanti ed è sempre meglio essere in tanti piuttosto che essere in pochi, e quindi c'è meno spazio, cioè lo spazio te lo devi conquistare, diciamo, io questo lo vedo ancora su una dimensione abbastanza sana, come a dire, lo sforzo fisico, il placcare qualcuno, rialzarmi ed essere già sull'azione successiva. A me personalmente l'unica cosa che mi dà fuoco al culo per fare questa cosa qui, sempre comunque, è sapere che magari la partita dopo potrebbe giocare qualcuno che l'ha fatto meglio di me questa cosa, che ogni azione della partita ha placcato, si è rialzato in tempo zero ed è andato su un'altra azione. Quindi la parte sana la vedo nel superare un pochettino anche il limite personale. Questa cosa qua secondo me non ha distinzione di genere, non ha distinzione di corporatura, cioè è una cosa meravigliosa, e quindi forse punterei più su quello e far passare il concetto anche a chi entra, diciamo anche al neofita di turno, fare in modo che sia proprio il primo concetto quasi che passi, nel senso basta, solo questo. Allora a sto punto faccio un intervento pure io prima di fare il recap, magari parla anche l'altro compagno di Torino. Noi come realtà di rugby sportivo, che è nata così un po' per gioco tipo l'anno scorso durante il lockdown e che ci alleniamo sempre a Milano nei parchi, siamo riusciti con un percorso ad occupare un campo qui a Milano in Vigentino, dove ogni tanto andiamo a fare degli allenamenti. Riguardo questa roba qua, secondo me il riassunto di tutto, cioè, è questo, cioè il rispetto del corpo altrui, nel senso, noi quando giochiamo dobbiamo, soprattutto in situazioni di sport popolare, cioè dobbiamo capire chi abbiamo davanti. Io faccio 108 kg, c'è una persona che ne pesa 48, non è che non la placco e spero che quella persona di 48 kg, cioè, mi placca e mi spacca, e può capitare benissimo. A Librino, un esempio pratico, c'era stato un po' tipo tutta la situazione particolare, perché una certa era stato chiamato un torneo di femminile, non c'erano abbastanza ragazze, quindi le ragazze hanno fatto delle partite. Noi abbiamo deciso di fare insieme ai compagni della Dinamo d'Ora tipo una squadra mista, eravamo l'unica squadra mista che giocava al seven con tutti i ragazzi, ed era quasi una cosa fuori dal mondo, cioè la gente era tipo abbastanza basita da questo, dicevano ma perché giocate mista, vedi che poi si spaccano. A livello pratico poi l'unico infortunio che c'è stato è stato in una partita di sole ragazze di femminile, e c'è stata una compagna nostra che invece si è fatta male perché un ragazzo l'ha placcata, ma non l'ha placcata come doveva essere placcata, cioè l'ha placcata un po' piana, accompagnandola, appunto ricalcando quelle cose che dicevano anche prima le compagne prima, ovvero modalità macio, il macio che arriva placca un po' piano, sai, perché la ragazza è più debole, eccetera. C'è stato anche un po' di chiacchierata riguardo a questo, però è stato tutto in ottica costruttiva. L'importante secondo me per provare a rilanciare dei momenti che siano questi, appunto, il rugby, divertirsi, e perché no, cercare di pensare di rilanciare degli allenamenti misti o di far partire i campionati WISP come già fa la Dinamo d'Ora, e secondo me è un pregio in Italia che la Dinamo d'Ora sia l'unica realtà di rugby popolare che gioca misto nel campionato di WISP, a 15, appunto, iniziare a entrare nell'ottica del rispetto del corpo altrui, cioè chi hai davanti. Io peso 108, una ragazza che pesa 48, ma magari c'ho l'ala che ne pesa 65, che è un ragazzo, è uguale, però quello, noi abbiamo un ragazzo che ne pesa, non lo so, una sessantina, a me mi butta giù tutta la vita, quindi questa roba qui cioè secondo me è molto importante farlo entrare nella testa. Se noi vogliamo propinare una cosa che non ricalchi lo sport mainstream, noi non ce ne, cioè Capuozzo sì, bello e tutto, ci siamo divertiti, però comunque ricalca la situazione mainstream. Non so se Capuozzo viene a giocare in una situazione mista, come si comporta, noi non ci deve interessare di quello. Dobbiamo provare a proporre un altro modello di rugby che sia ma veramente inclusivo per tutti, per tutte, per tutto, per tutto, insomma come vogliamo definirlo. C'è il ragazzo collegato. C'era Tommy. No, c'è Toma. Poi dopo magari proviamo tipo un po' a tirare le fila di questa assemblea con delle proposte e rilanciamo un po' degli appuntamenti sia del calendario del rugby popolare, sia una proposta che è uscita fuori, sia ci sono anche altri compagni del cantiere che volevano rilanciare quella che è un appuntamento importante dello sport popolare a Milano, che è la Bacup. Allora andiamo per gradi, facciamo prima parlare Toma. Sì, scusate se intervengo così a stretto giro, ma ci tenevo a dire delle cose su questo argomento, cercavo di essere diviso sugli argomenti. E no, appunto, la questione secondo me che ha tirato fuori Thor, secondo me è super interessante, è un punto da cui guardare la questione dello sport popolare, per me la questione dell'agonismo, che cioè io penso esista un agonismo sano, un agonismo non sano. Cioè io sono cresciuto in ambiente rugbistico, cioè io adesso ho 30 anni e da 14 anni, cioè da quando avevo 14 anni gioco a rugby, e a 14 anni, cioè quando ho iniziato a imparare questo sport, cioè gli insegnamenti che mi venivano propinati erano quelli di distruggere l'avversario, cioè di sormontare fisicamente l'avversario, schiacciarlo, cioè in cui il confronto sul campo era appunto, non era un confrontarsi, era una guerra, era qualcosa anche nella retorica, era, cioè nelle parole usate era qualcosa di per me brutto. Anche ho sviluppato, cioè nel senso, io sono una persona abbastanza individualista nel mio gioco del rugby, e anche tipo ero piccolo così, quando ero 14 anni ho sviluppato una rabbia, ho capito che per sopravvivere in quel campo devo incazzarmi nero, e quindi cioè ho un approccio molto avevo un approccio molto nevrotico al rugby. Lo sport popolare da questo punto di vista mi ha salvato, mi ha insegnato che c'è un altro modo di giocare, un altro modo di stare in quel campo, un altro modo di confrontarsi con l'avversario, l'avversaria. Infatti penso che quello sia l'agonismo che noi dobbiamo ricercare, la voglia di confrontarsi, la voglia di giocare assieme a un altro, un'altra, che si sviluppa in quell'uno contro uno, che io e te ci confrontiamo. Io non sto cercando di annichilirti, di schiacciarti, ma sto giocando con te a rugby, uno sport che ha delle regole, in cui assieme, cioè, ci ritroviamo in quel campo e cerchiamo di confrontarci. E a questo discorso per me, cioè, si deve aggiungere appunto il discorso del riconoscimento dei corpi e delle fisicità dell'altro e dell'altra, che secondo me è super interessante, super importante capire con chi si sta giocando contro. Questa cosa secondo me è difficile da applicare all'interno di un campionato in cui l'agonismo monta, in cui è difficile conoscere chi hai davanti, e mi accorgo appunto che gli allenamenti tipo che facciamo con la Dinamo durante il campionato, soprattutto prima delle partite, sono molto tesi. È più difficile, cioè questo ho detto di molte compagne, è più difficile stare nell'allenamento prima di una partita, in cui monta la tensione, in cui c'è voglia di entrare in campo e spaccare, e quindi è difficile stare in quell'allenamento. Adesso finito il campionato, gli animi si rilassano, si ricerca più un gioco differente, si ricerca più un gioco inclusivo, si ricerca più la voglia di stare assieme e di giocare, di riscoprire quello sport anche dalle basi, senza, cioè, capire come si passa un pallone. Quella cosa secondo me, cioè, tiro fuori questi punti perché secondo me tira fuori delle questioni interessanti, no? Dove ci porta la competizione, la scelta di partecipare a un campionato, dove ci porta come squadra? Ovviamente ci rilancia verso degli obiettivi, ci sprona per andare avanti, allenarci, ma anche perdiamo delle cose durante gli allenamenti. Secondo me questo punto è interessante. Io quando ho iniziato con la Dinamo, da quando inizia, cioè, vabbè, da quando è nata la Dinamo, per me è stata una fonte di scoperte, soprattutto legate grazie alle compagne, cioè, mi hanno veramente insegnato tante cose. Appunto, questa cosa del giocare misti è stata veramente tranciante, cioè io ero abituato a un rugby totalmente maschile in cui, come dicevo, si cercava di distruggere l'avversario, gli allenatori ti insegnavano solo mille trucchi e no, non solo, però ti insegnavano molti trucchi, bassezze per vincere la partita. E secondo me, come rugby popolare, dobbiamo interrogarci su queste cose, dobbiamo capire cosa vogliamo giocare, cosa, cioè, che sport vogliamo praticare. Io sono molto felice dell'ultima volta che sono entrato in campo all'interno di momenti come questo, come quello, come è stato a Catania, come è stato a Milano. Secondo me lì si è visto uno sport differente e sono molto contento di questa cosa. Taglio un intervento. Dopo magari, raga, se possiamo, dopo questo intervento, proviamo a chiamare il compagno della Valle che è in attesa da tot tempo per essere chiamato, rilanciamo un po' di appuntamenti, comunque rimaniamo qua tutto il giorno, delle cose ce le possiamo dire anche in maniera informale senza questa forma assembleare. Dai. Va bene. Io volevo portare un attimo la mia esperienza non solo, diciamo, da ragazza, ma da microbo d'alto 1,50 m per 44 kg. E diciamo che io ho giocato quando ero piccolina e sono rimasta piccolina e ho smesso per questo motivo, perché non crescevo, non riuscivo a placcare, perché come diceva il ragazzo che mi ha preceduta, molti hanno questo approccio al rugby del devi buttare giù, devi distruggerlo, devi ribaltarlo, ma ovviamente se sei grande quanto me la cosa è abbastanza difficile. E la cosa bella della Stella è appunto questa, che quando sono venuta a giocare, e non solo parlo magari con le ragazze, io magari non ho la prestanza di gioco che tira delle sportellate abissali, e diciamo che anche giocando con i ragazzi, a me non è che abbiano mai riservato un trattamento di speciale perché ero piccola, perché ero minuta, ma mi buttano giù, ovviamente, come diceva Pasca prima, a seconda dell'avversario che hai avanti, diciamo un po' ti regoli, ti moderi. Se hai davanti uno come me, non vai, e ne pesi 110, non è che vai a 150 km orari con la spalla chiusa, mettila così. E stessa cosa faccio io, cioè se trovo un mediano grande come me, lo butto giù tranquillamente. Se ne trovo già un pilone, miro alle caviglie. Non sempre riesco, a volte mi butto in mezzo e lo faccio inciampare, però diciamo ognuno ha i suoi metodi. E volevo ringraziare la Stella, perché, ma anche il rugby popolare, perché comunque vedo che è un'idea comune l'abbattere questo pregiudizio non solo di sesso ma anche di fisicità. Infatti ancora a me, magari ogni tanto andando in giro dicendo che gioco a rugby e non faccio neanche tanto schifo, spero, e mi è capitato molto spesso, ma non solo da ragazzi, anche da ragazze e anche da parenti che comunque conoscono me, la mia famiglia, perché è mio padre che mi ha, diciamo, insegnato la passione del rugby, mi ha insegnato rugby come sport di rispetto nei confronti dell'avversario, e football invece una merda, il calcio una merda, il rugby è bello, già gioca a rugby, infatti è lui che mi ha fatto giocare da piccolina. E diciamo che mi capita ancora di beccare quelle persone che ti fanno: ah, ma tu giochi a rugby, ma con il contatto, ti dici no, guarda, gioco a celai, cioè senza. Nel senso, mi capita ancora tuttora, e anche quando magari mi è capitato con la Stella di andare a un'assemblea studentesca di aiutare il mio allenatore, diciamo, ad allenare, o ho fatto un piccolo esperienza da allenatrice quest'anno a Cinisello, ti guardano veramente veramente male i genitori, le cose. Poi ovviamente, cioè, riesci a fargli cambiare idea, riesci a tirarli un attimino più dentro, però nel senso, Se è già difficile essere donna nel mondo del rugby, perché è uno sport da maschi, uno sport da contatto, ti picchi, ti butti per terra, giocare a rugby da donna e essere un microbo veramente piccolo, perché io sono piccola ma mi diverto così, è ancora più difficile. Ed è bello che la Stella, che comunque, oltre ad abbattere i pregiudizi di sei una donna allora ci vado piano, abbattono anche i pregiudizi sei piccola allora ti tiro su per la maglia, cioè Dinamita a volte mi tira su per la maglietta pigliandomi per il culo, però nel senso solo lui, perché Dinamita è una brutta persona. No, scherzi a parte. Invece Duilio mi è capitato più volte che mi buttasse per terra nel toccato. Però a me è piaciuto così, mi sono sentita anche abbastanza rispettata, messa dentro, perché tu dici non mi prendi per in giro, perché io sono qua, sono qui per giocare, e se mi tiri le sportellate è giusto, pace. Grande Geox, ti rispetto se ti placco quando giochiamo a toccato, è una forma di rispetto secondo Gea. È una cosa bellissima questa che hai condiviso. C'è il ragazzo collegato, Pasca? Va bene, parlo io, poi parla Pasca. Mi ha detto Pasca, così io così eseguo, perché non vorrei mai alterare i desideri del compagno Pasca. Io vi invito a non farlo nessuno. Comunque, grazie a tutti ragazzi per gli interventi che sono stati, secondo me, quello che ci aspettavamo da questa riunione. E vedo non è finita assolutamente, se no Pasca si incazza, nessuno sta dicendo che qui è finita la riunione, continuerà all'infinito.